Draghi alla BCE ufficiale la nomina, Vinisbaghi cede, se ne andrà entro l'anno. De Magistris vola a Roma per ripulire Napoli, per le strade proteste ed esasperazione. Giustizia, Alfano, discussione prima dell'estate, ma no a un decreto per le intercettazioni. Il PM Lepore a Radio 24, grave è che la gente non si sgomenti. Ecco come si fa il cinema, Cinecittà, salire in cattedra e Woody Allen. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. E dunque ufficiale, l'italiano Mario Draghi sarà il nuovo presidente della Banca Centrale Europea. L'annuncio ve l'abbiamo dato in diretta nell'edizione delle 12. Ora c'è da capire con che modi e che tempi. In ogni caso il vertice europeo di Bruxelles due obiettivi li ha centrati. Oltre alla presidenza di Draghi c'è anche l'accordo per la Grecia. Allora torniamo a Bruxelles da Gerardo Pelosi, buongiorno. Buongiorno a voi. Dicevamo, sì, dunque lunghe trattative, ma sembrano aver dato frutto. L'accordo è stato raggiunto, anche se con una piccola drammatizzazione di questa notte voluta dai francesi. Praticamente in questa Europa che sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua storia, forse ci si sarebbe dovuti meravigliare del contrario, e cioè se la nomina di Mario Draghi a capo della BCE fosse filata via liscia, non avesse trovato ostacoli di sorta. Invece, quasi a rappresentare la crisi attuale, la nomina di colui che fino al 2019, sono 8 anni, reggerà le sorti della politica monetaria europea, si è trasformata in una vera corsa a ostacoli, dove si sono inanellate gaffe e leggerezze da varie parti e non soltanto in Italia. Solo alla fine, dopo una notte appunto di non accordo voluto dai francesi come segno della loro insoddisfazione, è venuto il via libera a Mario Draghi, ma solo dopo che Lorenzo Vinismaghi, l'italiano attualmente nel board dell'Eurotower, a dispetto delle sue precedenti prese di posizione, si è impegnato formalmente, direttamente col presidente francese Sarkozy, che entro l'anno lascerà il suo incarico a Francoforte. Anche quel dire entro l'anno è una pietosa bugia, con la quale si è cercato di difendere in extremis l'autonomia della BCE messa sotto tutela dal potere politico. Tutti sanno infatti che per evitare che nel board della BCE siedano contemporaneamente due italiani, Vinismaghi dovrà lasciare entro il 31 ottobre prossimo. Ma è significativo che Sarkozy abbia preteso e ottenuto l'assicurazione direttamente da Vinismaghi prima di dare il suo disco verde alla nomina di Draghi, quasi che le assicurazioni di Berlusconi contassero poco o niente, come infatti è accaduto già nel passato. A Villa Madama, nell'ultima bilaterale italo-francese, il presidente francese esplicitò il suo appoggio a Draghi, ma a condizione, disse, che Vinismaghi lasci il suo incarico. Lascerà, disse Berlusconi, ma come noto le cose non sono andate così. Vinismaghi avrebbe preteso il posto di governatore della Banca d'Italia per lasciare, Palazzo Chigi gli ha chiesto tardivamente ma formalmente di fare un passo indietro, e la storia poi si è complicata trasformandosi in un conflitto tra l'autonomia della BCE e il potere politico. Ci è voluto il telefonino dell'ambasciatore italiano a Bruxelles, Ferdinando Nelli Feroci, allungato direttamente a Sarkozy, con dall'altra parte del capo Vinismaghi, che si impegnava a lasciare per sbloccare questa assai poco edificante pagina della storia dell'Unione Europea. Da Bruxelles è tutto. E grazie a Gerardo Pelosi. A chiusura di tutto questo e di una nomina che ha seguito percorsi quantomeno singolari, da aggiungere che la prima notizia diffusa sul nomina di Draghi è stata in rete su Twitter, dove l'ha postata il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, ancora mentre la riunione era in corso. E poco fa è arrivato anche un messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Siamo certi che Mario Draghi saprà pienamente corrispondere alla fiducia manifestatagli dalle autorità italiane ed europee, guidando con mano sicura in una fase difficile l'istituzione che opera a Francoforte. Così Giorgio Napolitano. Mario Draghi dunque si appresta a diventare presidente della BCE dopo il tedesco Wim Duisenberg e il francese Jean-Claude Trichet. Ma chi è l'italiano che guiderà la Banca Centrale Europea? Rossella Bocciarelli. Durante le 2 ore e mezza di intervista fatte dai parlamentari europei una settimana fa, di fronte al tono da falco assunto dal governatore della Banca Centrale, avevano detto «lei sembra più tedesco dei tedeschi», Draghi si è limitato a rispondere Le cose che io ho affermato negli ultimi mesi sono le cose che ho pensato e detto in tutta la mia vita. Super Mario, in realtà, è molto orgoglioso di essere italiano. La sua biografia è nota. È nato a Roma nel 1947, si è laureato alla Sapienza con Federico Caffè, ha studiato all'MIT di Boston con Franco Modigliani, è stato direttore esecutivo alla Banca Mondiale, direttore generale del Tesoro per 10 anni, dove ha gestito 100.000 miliardi di privatizzazioni, ed è poi approdato al settore privato. Infatti è stato alla Goldman Sachs dopo il 2001 e quella Goldman Sachs che dopo la crisi finanziaria ha perso molto smalto e anche un po' di reputazione, tanto questo aspetto è stato ha giocato un pochino a suo sfavore, diciamo, in questi ultimi mesi. E tuttavia, come ha scritto l'Economist, quella è stata pur sempre un'importante esperienza finanziaria, nella quale tra l'altro non c'è assolutamente nulla di sconveniente, come Draghi ha ribadito anche nell'ultima audizione al Parlamento europeo, e che sia stato percepito all'estero come tale. Rocella Bocciarelli, allora sentiamo invece che succede in borsa. C'è un tracollo in questi minuti delle banche. Che succede, Deborah Rosciani? Stiamo cercando anche noi di capirlo. Per la verità le motivazioni non le conosciamo, perché naturalmente una motivazione c'era, era quella della decisione di Moody's, che ieri pomeriggio ha fatto sapere di aver posto il rating sul debito a lungo termine di 16 banche italiane in vista di un possibile downgrade, di una riduzione di giudizio. Per la verità però le banche che tracollano di più sono quelle che non sono interessate a questa possibile riduzione di giudizio. Unicredit è sospesa dagli scambi dalle 12.36, quando perdeva l'8%, e per la seconda volta già nel corso di un'ora aveva subito un tracollo di questo tipo, poi recuperando e poi accusandolo di nuovo. La Popolare di Milano meno 3.72, Monte dei Paschi meno 3%, Monte dei Paschi era già partita male, adesso peggiora la giornata, ma questa banca sta facendo l'aumento di capitale già nel mirino degli investitori da qualche giorno. Banco Popolare meno 2,43, Azimut meno 2,33, Intesa meno 2,13. Questa è la situazione. Stamattina peraltro le borse europee provavano un rimbalzo molto deciso dopo i cali di ieri, invece lo fallisce miseramente appunto Milano, che segna adesso un meno 0,62%, ma un'ora fa è arrivata a perdere quasi 2 punti improvvisamente, repentinamente, proprio sotto il peso delle vendite che riguardavano i titoli bancari. Questa al momento, Anna, è la situazione. Perdono terreno tutte le altre banche in tutto il resto d'Europa, ma con delle prestazioni molto differenti rispetto ai titoli bancari di Piazza Affari. I peggiori sono Lloyds a Londra, meno 2,55. Abbiamo Crédit Agricole a Parigi e BNP Paribas che perdono circa 1 punto, ma appunto le performance sono ben lontane da quelle che stanno accusando i titoli bancari di Piazza Affari. Unicredit in questo momento, riammessa agli scambi, perde il 4%. Anna. Grazie Deborah Rosciani, naturalmente continueremo a monitorare la situazione per capire cosa sta succedendo. Intanto andiamo invece a Roma, dove da pochi minuti presso la sede del Ministero dell'Ambiente è iniziato l'incontro tra il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il ministro Stefania Prestigiacomo sull'emergenza rifiuti nel capoluogo campano. Si tratta della prima riunione ufficiale tra il governo e il nuovo sindaco. De Magistris si è dichiarato ieri pronto a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria per la città e disporre scorte armate per lo scombero delle strade e dai rifiuti. Mentre i napoletani sono sempre più esasperati. Proseguono le proteste e i blocchi dei cittadini a Napoli contro l'emergenza rifiuti. La gente è scesa in strada e ha riversato i sacchetti lungo la carreggiata. Al momento la circolazione delle automobili risulta bloccata un po' dovunque nel capoluogo partenopeo. Cumuli di sacchetti sono stati posizionati ad ostruire perfino l'uscita della tangenziale di Agnano, che ovviamente ora è chiusa al traffico. Ristorante e bar chiusi anche in Pino Centro, con i turisti che fotografano qui e là i rifiuti sparsi nelle strade, e la gente è sempre più arrabbiata. La gente è anche esasperata, molti si sono messi di vedetta sui balconi, i negozianti, i commercianti, e prima che metta la spazzatura fuori orario a quel posto succede la rivoluzione. E nonostante l'appello di ieri sera del sindaco De Magistris, anche nella notte appena trascorsa sono stati dati alle fiamme decine di tonnellate di spazzatura. I vigili del fuoco sono intervenuti per una sessantina di roghi appiccati ai sacchetti e cassonetti in città e nell'Interland. Chi produce roghi è un criminale e non è uno che fa opposizione alla buona politica, è soprattutto un criminale. E mentre prosegue il piano di emergenza varato dal comune, anche se gli effetti ancora non si vedono, nella notte gli autocompattatori sono stati scortati dalla polizia municipale armata. Insomma, si respira sempre di più un clima da guerra civile. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E intanto il governo accelera sulle intercettazioni. La discussione potrebbe aprirsi prima della pausa estiva. Alessandra Schepisi. Sì, è così avanti tutta sulle intercettazioni. Il governo vuole mettere mano al sistema, soprattutto alla luce delle paginate sugli atti dell'inchiesta sulla cosiddetta P4, a confermarlo al ministro della giustizia Alfano, che torna a parlarne durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Le intercettazioni, oltre ad essere sbagliate, sono anche fuori legge, dice il guardasigilli, che annuncia quale sarà il piano del governo. Sentiamo allora la sua voce. Noi abbiamo scelto un percorso 3 anni fa e non intendiamo né fare un decreto e né orientare la prua in una direzione differente da quella del disegno di legge che il 29 luglio dello scorso anno era già stato discusso alla Camera. Anche il ministro degli Esteri Frattini chiarisce che non ci sarà un decreto ma una buona legge da approvare entro agosto e auspica il concorso di tutte le forze politiche. Nessun bavaglio all'informazione, dice invece l'opposizione. Il PD suggerisce di riprendere un DDL del governo Prodi che tutelava la riservatezza senza, a suo dire, penalizzare le inchieste. Da Roma è tutto. Grazie anche ad Alessandra Schepisi. Una cosa grave che mi preoccupa è che la gente si sgomenta e si arrabbia per la diffusione delle intercettazioni, ma non per il contenuto. Questo è molto grave. A parlare così è intanto è il procuratore di Napoli, Gian Domenico Lepore, è intervenuto oggi a 24 mattino per parlare dell'inchiesta P4. È un sistema che purtroppo stiamo notando da un po' di tempo adesso, determinate indagini. Si cerca di delegittimare i magistrati e le attività investigative che stiamo facendo, dicendo che in effetti attraverso le intercettazioni li facciamo soltanto pubblicità e gossip, ma in effetti non è così. E il ministro Alfano, che io conosco bene e che stimo, sa benissimo che la Procura di Napoli non fa queste attività. È una cosa grave, è una cosa che mi preoccupa, che la gente sgomenta e si arrabbia per la diffusione delle intercettazioni, sì, ma non del contenuto delle intercettazioni, e questo è molto grave. Vorrebbe vedere anche un po' di indignazione per quello che c'è scritto in queste intercettazioni. Bravo, non... questa è la cosa, ma in effetti si sminuisce invece l'attività nostra cercando di dire che noi facciamo questo solo per pubblicità, è cosa che non è bene. Così l'intervista di Alessandro Milan. Tra poco la pagina internazionale, prima però una lezione d'eccezione, perché a spiegare il cinema a Cinecittà è stato questa mattina Woody Allen e per noi c'era Jacopo Matano. Sì Anna, infatti è stata una lezione certamente particolare quella a cui hanno assistito gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Maestro d'eccezione l'inimitabile Woody Allen, il regista newyorkese che inizierà proprio a Roma l'11 luglio le riprese del suo prossimo film, è arrivato questa mattina alla scuola di Via Tuscolana di fronte agli studi di Cinecittà ed è regalato agli studenti 2 ore di Lectio Magistralis su come si fa cinema. Ovviamente Woody Allen ha tradito le aspettative di chi pensava di ascoltare consigli da manuale ed ha spiegato con la sua solita ironia che l'importante è sperimentare ed osservare. Sentite cosa ha detto. Young people ask me very fundamental. I giovani mi fanno spesso domande che loro ritengono fondamentali, come in che modo hai iniziato, scrivi con la matita o con la penna, stai in piedi o sdraiato, perché si sentono perduti nella lista di cose da fare. La cosa importante invece è vedere molti film ed è molto più importante di qualsiasi scuola o lezione. Il regista poi ha mantenuto il riserbo sul film in cantiere che vedrà impegnati, e questo si sa quasi per certo, gli attori italiani Riccardo Scamarcio e Isabella Ferrari, poi Penelope Cruz e il grande Roberto Benigni. Ma nel frattempo, tra un'incursione e l'altra per le vie della capitale in cerca delle migliori location, ha promesso: nel mio film Roma sarà ancora più bella. Ed è tutto. Le 13:19 minuti, le notizie di GR24, Mario Draghi alla BCE, ufficiale la nomina, Ministri Draghi telefona a Sarkozy, assicura una soluzione entro l'anno. De Magistris vola a Roma per ripulire Napoli. In corso un incontro con il ministro Prestigiacomo per le strade, proteste ed esasperazione. Giustizia, Alfano, discussione prima dell'estate, ma no a un decreto per le intercettazioni. Il PM Lepore a Radio 24 sulla vicenda P4 dice: grave che la gente non si sgomenti, non che si pubblichino. Parlavamo del Consiglio europeo. A Bruxelles è arrivata la nomina di Mario Draghi, è arrivato l'accordo con la Grecia, si è parlato anche della situazione internazionale. Torniamo a Bruxelles perché proprio in questi minuti sta iniziando la conferenza stampa del Presidente della Commissione europea Barroso e del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy. Stanno parlando in questi istanti, cerchiamo di sentire cosa stanno dicendo. Salvaguardia dovrebbe essere introdotto in modo da reagire, rispondere a circostanze. Qualche problema sul collegamento, naturalmente la conferenza stampa ve la faremo sentire nelle prossime edizioni. Intanto però a Bruxelles restiamo perché, dicevamo, si è parlato anche di altre vicende internazionali. Bruxelles ha confermato il pieno appoggio alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU in Libia. L'appoggio alla missione militare viene ribadito dopo le polemiche recenti sulla durata delle operazioni, e a Bruxelles si è parlato anche di Siria. L'Unione Europea prende posizione. A Bruxelles prepara un documento in cui scrive che il regime siriano di Assad sta perdendo legittimità perché prosegue nella repressione. E aggiunge: i responsabili ne pagheranno le conseguenze. Da oggi sono operative anche le sanzioni, ma il pugno duro di Damasco contro i ribelli non si attenua. Ieri i carri armati si sono pericolosamente avvicinati al confine con la Turchia, spingendo molti profughi siriani al di là del confine, in tende di fortuna. Nella zona la situazione è difficile ma per ora sotto controllo, ci dice dalla Germania Kamal Zido dell'associazione Popoli Minacciati. Tra qualche giorno sarà nella regione per verificare di persona, intanto è in contatto con attivisti siriani e turchi. Solo ieri, aggiunge, 600 siriani sono scappati dal paese. Una situazione preoccupante che potrebbe destabilizzare la regione, ha commentato il segretario di Stato americano Hillary Clinton. Paola Nania, Radio 24, e Sole 24 Ore. E intanto a fare i conti è il Giappone dopo il terremoto e lo tsunami. Quasi 17 miliardi di yen, che equivale a 209,8 miliardi di dollari. È la cifra di quanto si è portato via lo tsunami giunto dopo il terremoto che ha colpito il Giappone l'11 marzo. Strade, case, porti, tutto quello che andrà ricostruito e che comprende anche imprese rase definitivamente al suolo. Il governo giapponese inizialmente aveva stimato il danno in una forbice compresa tra i 16.000 e 25.000 miliardi di yen ed ora ha affinato la propria stima sulle informazioni raccolte dalle autorità nelle zone colpite, in particolare le prefetture di Miyagi, Iwate e Fukushima. Nel totale non è stata calcolata la conseguenza economica indiretta della catastrofe, e cioè la carenza di energia elettrica e l'interruzione dell'attività aziendale, ma neppure l'impatto dell'incidente nucleare di Fukushima. Incalcolabile, ed è davvero incalcolabile, il prezzo pagato dalla popolazione coi suoi 23.000 morti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è un aggiornamento, ve lo diamo in diretta, dicevamo, dell'incontro in corso tra il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo e il sindaco di Napoli, De Magistris, per l'emergenza rifiuti. Il governo ha allo studio un provvedimento straordinario per agevolare il trasferimento dei rifiuti napoletani, lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo nel corso della riunione a Roma. E a fotografare l'Italia, andiamo avanti col giornale, il rapporto OCSE. Nel nostro paese, si legge nel documento pubblicato questa mattina, la diseguaglianza di reddito è più alta della media dell'area. Gli economisti parigini scrivono anche che Italia e Germania restano fanalino di coda per spesa in istruzione, il 9,3% dell'intera spesa pubblica sotto la media del 13,1%. A segnare una ripresa sono invece i consumi. Ad aprile l'Istat registra l'aumento più rilevante da oltre un anno, con vendite al dettaglio aumentate del 2,5%. Nel confronto mensile le vendite sono cresciute dello 0,4%. In questi minuti c'è in corso anche un altro incontro, si parla di contratti nella foresteria di Confindustria. Al tavolo con gli industriali ci sono tutti e tre i sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL. Il segretario della CGIL, Susanna Camusso. Speriamo che si apra una discussione utile a risolvere i problemi della rappresentanza. Farà un accordo unitario? State lavorando per questo? Direi che è difficile, non si giocano i pronostici al lotto. Avviamo una discussione e speriamo che sia positiva. La pagina della cronaca: manette questa mattina per 11 persone a Parma nell'ambito dell'inchiesta sulle mazzette per il verde pubblico. Tra gli arrestati il comandante della Polizia Municipale, imprenditori e dirigenti comunali. L'accusa è di peculato. E a Milano è giallo invece per un duplice omicidio. Lei è stata trovata morta sul letto, nuda e con le mani legate. Il fratello, invece, avvolto in un lenzuolo a qualche chilometro di distanza. Lei soffocata con un sacchetto di plastica, lui accoltellato diverse volte. In mezzo al duplice omicidio di questa mattina a Milano, il fidanzato della ragazza, che si è presentato in stato confusionale dalla polizia. Dalle prime indiscrezioni avrebbe fatto ampie ammissioni, ma non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Nel frattempo, l'appartamento dove vivevano le vittime è stato posto sotto sequestro, così come l'auto del presunto omicida. Sul posto è intervenuta la scientifica. I nomi delle vittime non sono stati resi noti, in quanto i genitori non sono stati ancora rintracciati. Romolo Napolitano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riproviamo a collegarci con Bruxelles. In corso, dicevamo, la conferenza stampa finale del vertice europeo che ha visto la nomina di Mario Draghi. Sta parlando in questi minuti il presidente della Commissione, Barroso. Come fissata dal trattato, è uno dei risultati più tangibili e più importanti dell'integrazione europea, oltre a essere una libertà fondamentale che non può essere messa a repentaglio. Su Schengen abbiamo concordato un approccio europeo per evitare il rischio di azioni unilaterali che disturbino la libera circolazione e minino il mercato interno. Accordo raggiunto a Bruxelles, sentivate anche su Schengen. E apriamo ora invece la pagina sportiva con quello che è il tormentone di questi primi giorni d'estate, che succederà sulla panchina dell'Inter. Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno Anna. Stare all'Inter ormai è come stare al governo, un vertice dopo l'altro. L'obiettivo è trovare questo benedetto allenatore, il quarto in 12 mesi. Sembra tutto fatto per Giampiero Gasperini, detto il Ferguson della lanterna, perché prima di essere esonerato dal Genova era riuscito in 5 anni a riportarlo in Serie A, traghettandolo perfino in Europa League. Ora manca per l'Inter solo l'annuncio, ma dopo una lunga serie di candidati mancati è meglio stare un passo indietro e non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Cosa impedisce la conclusione, insomma? Non i soldi, perché l'accordo c'è già, un anno di contratto, un ingaggio di 1,5 milioni. Gli spigoli sono due. Primo, che Leonardo, quasi direttore sportivo del Paris Saint-Germain, sciolga definitivamente il vincolo con l'Inter. Secondo spigolo è la caratura internazionale di Gasperini, bravo allenatore ma molto italiano. Per il resto solo buone referenze, cresciuto nel nido della Juventus, uomo di buon senso, sa unire il bastone e la carota, cosa utile nello spogliatoio interista. Ricordiamo che a suggerire Moratti Gasperini fu Mourinho, e in tempi non sospetti disse che Gasperini era il migliore allenatore sulla piazza, allenatore italiano naturalmente, perché Special One non è mai secondo a nessuno. E grazie anche a Dario Ceccarelli. Si conclude qui questa edizione di GR24. Tutti gli aggiornamenti da Bruxelles e non solo nell'edizione delle 14. C'è Italia in controluce ed Anna Migliorati. Ancora una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.